I don't know why.

inizio ad intravedere le prime luci dell'alba. Guten Morgen, Miss Ellen. Buongiorno, clorofilla. Thank you. Clorofilla, applauso per Ellen Alien. Grazie. Ellen, Alien, grazie Clorofilla.